anni, e una identità di classe che si è formata conseguentemente alla rivoluzione industriale, e che però non doveva esistere solamente in sé, doveva esistere anche per sé, no? Ecco, così come ci avevano formato all'epoca, non era sufficiente che esistesse una classe, no? Bisognava anche che fosse cosciente di essere una classe e che quindi ne assumesse tutte le caratteristiche, che si creasse anche un gruppo dirigente, una cultura. E per avere questa identità, sicuramente ricostruire la propria storia era un passaggio quasi obbligato. Questa classe che poi, liberando se stessa, avrebbe dovuto liberare il mondo intero, così molti hanno creduto per 100-150 anni. A questo punto siamo nel XXI secolo, molti mettono in discussione il fatto che esistano ancora le classi sociali, che esista ancora la possibilità di un dibattito politico, molti pensano che ormai c'è un pensiero unico, che la storia è finita, che essendo venuti meno i punti di riferimento anche a livello internazionale, di fatto non esistono più neanche i temi di un dibattito politico, però sicuramente per 150 anni questa identità di classe è stato un argomento di discussione che ha appassionato e che ha preso la biografia di molti militanti e anche di molti storici che hanno preso il loro impegno politico e sociale e hanno cercato di affrontare, di portare avanti il discorso da entrambi i punti di vista. E Cesare Birmani è uno di questi, è stato fra i fondatori dell'Istituto Ernesto De Martino e è stato uno dei primi ad utilizzare gli strumenti della storia orale, ecco, andando a raccogliere le testimonianze delle persone delle classi subalterne, quindi si diceva all'epoca, nella scuola di Gianni Bosio, di Luciano Della Mea, andando a raccogliere le registrazioni delle canzoni delle mondine, delle canzoni degli anarchici, dei socialisti, dei comunisti. È stato uno di quelli che ha anticipato quello che si chiama appunto la storia orale, la storia dal basso. E poi abbiamo invitato Marco Garau e Giorgio Tireni, che sono la memoria storica del sindacato e del PC a Bolzano. Fra l'altro Giorgio Tireni è anche molto attivo nel campo della ricerca storica negli ultimi anni, perché dopo essere stato un punto di riferimento, dove è stato praticamente il vice sindaco di fatto della partita di Regina Pace di Don Bosco per tanti anni, negli ultimi anni si sta occupando anche di raccogliere le testimonianze storiche di questo quartiere e ha già organizzato alcune mostre fotografiche. Mi sembra che tu sia in contatto con la Valeria per lasciare. Ecco, a proposito di lasciti, così colgo l'occasione per ricordare che un paio di anni fa, quando Andrea Mascagni si è trasferito a Trento, abbiamo fatto in modo che Andrea lasciasse il suo archivio al Museo Storico di Trento, ma la sua biblioteca a questa biblioteca provinciale. Infatti qui si trova il fondo Mascagni, così come Lidia Menapace ha deciso di lasciare tutti i suoi documenti al Centro di Documentazione della Donna di Roma, ma la sua biblioteca verrà lasciata qui alla biblioteca provinciale. Questo è anche abbastanza importante per la costituzione di questi fondi archivistici e documentari. E poi anche l'ANPI ci ha donato la collezione completa delle riviste e alcune monografie in tempi recenti. Ecco, questo mi era sfuggito. Ecco, quindi ecco, io darei la parola a Cesare Birmani per una relazione introduttiva e poi ascolteremo le testimonianze di Marco Garau e Giorgio Tireni. Quanti minuti? Ah, scusate, poi spot pubblicitario, Cesare Birmani è anche il curatore di questi dischi che recentemente sono stati rimasterizzati, va bene? I dischi che uscivano negli anni 60, le raccolte nelle canzoni dei socialisti, degli anarchici, le canzoni dell'immigrazione, le canzoni della guerra, ecco. Ne ho portati alcuni così, perché magari potrebbero essere anche. Magari potremmo anche ascoltarli dopo durante il buffet. 25-30 minuti per parlare di queste cose. Ma io devo dire di essere un po' imbarazzato, perché non ho mai creduto all'identità operaia, detto proprio con molta fuori dai denti, no? D'altra parte ho pensato di accettare questo invito perché della classe operaia si parla sempre meno, mi sembra molto grave, non solo si oscura il presente della lotta di classe, direi che lo spazio dato all'ultimo sciopero dai giornali è una cosa molto eloquente, ma direi che tutta la storia passata della classe operaia viene marginalizzata giorno dopo giorno. Devo dire con molta franchezza di pensare che in questo hanno responsabilità sia gli avversari di classe che i nostri compagni, no? In realtà, con la fine della centralità operaia all'inizio degli anni Ottanta è venuto un po' meno il baricentro attorno al quale si organizzava gran parte della ricerca sulla classe operaia. Questo è anche comprensibile perché chi si occupava di queste cose erano per lo più non storici di professione, ma militanti, che poi a volte sono diventati storici, che riflettevano su come meglio condurre le lotte e quindi erano interessati a conoscere che cosa fosse la classe operaia. Venuto meno l'oggetto della loro pratica politica, che era la grande fabbrica, soprattutto la grande fabbrica, se ne sono sempre meno occupati. Chiusosi il ciclo di lotta, apertosi direi alla fine degli anni 60 in Europa, ma qui da noi già all'inizio, direi già con luglio 60, con Piazza Statuto, con queste cose, la data emblematica della chiusura di questo ciclo, lunghissimo peraltro, è l'autunno dell'80, con la sconfitta della lotta dei 35 giorni alla Fiat, seguita poi 5 anni dopo dalla sconfitta nel referendum sulla scala mobile, se ben ricordo, e quindi la perdita, diciamo, di importanza, di status del lavoro nella società post-industriale ha causato una crescente disaffezione dei politici anche e degli studiosi per questa storia. Alla fine degli anni 60, dopo che l'Italia si era trasformata da paese prevalentemente agricolo in paese industriale, il peso sociale raggiunto dai lavoratori dell'industria, sia per la loro rilevanza numerica che per la loro presenza di grandi concentrazioni operaie nei maggiori poli di sviluppo, aveva dato alla classe operaia un peso politico determinante. Di qui l'idea che esistesse una centralità operaia, la cui fine negli anni Ottanta è dovuta alla drastica diminuzione di peso sociale e politico degli operai delle medie e grandi fabbriche, ed è stata causata dal processo di decentramento e di ristrutturazione industriale che hanno potuto anche correre più facilmente a causa della sconfitta operaia, ma che non erano solo legate alla sconfitta operaia, ma erano anche legate alla trasformazione dei mercati, alla trasformazione del sistema produttivo e delle tecnologie su scala mondiale. Il crollo dell'occupazione nelle grandi e medie fabbriche ha visto però un crescere del lavoro autonomo e un intensificarsi in molti settori di lavoro dello sfruttamento, tanto che c'è stato anche chi ha potuto addirittura parlare di un'incertezza occupazionale in questo periodo e di una mancanza di sicurezza sociale legata anche al venir meno progressivo dello Stato assistenziale, che ricorda il periodo della iniziale formazione della classe operaia, anche se allora, se vogliamo, abbastanza presto, dopo un periodo in cui non esistevano organizzazioni, c'è sempre un periodo di latenza, e spero che questo sia un periodo di latenza da cui si esca. Sono nate poi una serie di organizzazioni che anche queste potrebbero ancora essere seriamente studiate, perché possono dare delle idee, cioè queste prime organizzazioni, dalle leghe alle società di mutuo soccorso, alle cooperative, alle banche operaie, per esempio. Le banche operaie sono una cosa che non è mai stata tanto studiata, ma molto importante per il credito a chi volesse avviare delle iniziative. questa oggi invece direi che gli strumenti, qui Garau mi darà contro, ma o contro comunque, gli strumenti che ha a disposizione la classe operaia per difendersi sono spuntati, bisognerebbe trovarne degli altri. Parlavo prima appunto con il nostro amico qui davanti del fatto che oggi i lavoratori, soprattutto i lavoratori autonomi, che sono una cosa molto importante, in larga misura sono anche dei morti di fame, ma questo nessuno lo dice, perché altrimenti si dovrebbe fare i conti con politiche partitiche e sindacali che sono spuntate, insomma. E poi voglio dire, una delle cose che a me sembra molto importanti di quegli anni di cui parlavo, degli anni 60, è che allora comunque si faceva ricerca, si cercava di capire chi erano gli interlocutori, si andava a parlare con la gente, si parlava anche con gli operai. Io ho passato tempo in memore a parlare con gli operai degli innocenti, a volte anche rischiando botte, perché non tutti gli operai degli innocenti ovviamente erano un blocco omogeneo, anzi erano molto sfrangiati tra di loro, e quando per esempio andavo a parlare con uno di un certo reparto che era un bravissimo attivista sindacale ma era di lotta comunista, ti trovavi magari un altro che immediatamente dopo ti dava addosso, insomma. Questo era, però voglio dire, si andava a registrare queste cose, si registravano, io credo aver sempre registrato quello che facevo dal 1962 in poi. Se mi muovevo in una sezione di partito facevo l'archivio, l'archivista, e facevo l'archivio con registrando per esempio le sezioni, tutta la vita della sezione. E infatti oggi, se c'è forse qualche registrazione su quella che sono state le vite di sezioni del Partito Comunista allora, sono dovute a me, che le ho conservate e che per questo motivo, che facevo i verbali con questo strumento del demonio, sono stato anche mandato davanti alla commissione di controllo. Perché cosa succedeva? Diciamocelo chiaro. In una sezione, soprattutto negli anni 60, come poteva essere a Novara, scusate se ho preso un giro, ma forse è meglio, come poteva essere Novara, dove arrivavano immigrati dal sud, dalla Puglia, dalla Sicilia, dove arrivavano modi di vedere il mondo tra loro molto diversi, no? Ed entravano in fabbrica e nel partito. Quello che succedeva però è che quello che questi dicevano, che spesso era importantissimo, non arrivava, non fosse altro perché parlavano in dialetto. Allora, se tu registravi, potevi cercare di capire che cosa avevano effettivamente detto e fare dei verbali attendibili. Già, ma questi verbali attendibili mai andavano d'accordo con la linea del partito, nel senso che cosa succedeva di solito? Che arrivava un funzionario, faceva un verbale sulla base della memoria, no? O degli appunti che lui prendeva. Questo verbale era straordinariamente, come dire, monco, perché quello che ho potuto constatare, avendo poi trovato i verbali che alcuni amici, forse uno era in Unione Sovietica, magari l'hai conosciuto, il Bocchio, no? Non l'hai conosciuto, e faceva, e questi verbali, non c'è niente di comune, cioè nel verbale, in questo caso di Bocchio, non dico sempre dei funzionari, può darci che qualcuno fosse più bravo anche a fare i verbali, ma arrivava una linea del partito che nasceva dall'alto, e lì invece c'era il sentire comune della sezione, insomma. Ognuno ci metteva un po' del suo, insomma. Sì, ecco, questo era. E comunque, per dire che io ho sempre portato dietro a me il registratore, sin da allora, fin quando sono anche rimasto disoccupato, e l'ho utilizzato anche terapeuticamente nei miei confronti, perché tutte le mattine, quando sono rimasto disoccupato, per un buon annetto non riuscivo a pensare di sopravvivere al fatto di non poter più lavorare, e tutte le mattine mi alzavo, mi guardavo allo specchio e dicevo: adesso mi ammazzo. Ma cosa sto qui a fare? Mi ammazzo. Poi mi è venuto un dubbio, ho detto: ma chissà che non capiti anche agli altri qualcosa di simile. Infatti ho preso il registratore, sono andato a fare una ricerca sui lavoratori delle cartiere del Verbano che erano rimasti disoccupati o erano in cassa integrazione, e ho scoperto delle cose che non avrei mai supposto, cioè intanto che tutti avevano cose di questo tipo, tranne i giovanissimi, perché i giovanissimi si sgamavano, ma sai, quando uno resta disoccupato sopra i 35 diventa molto dura, no? E quindi quello che succedeva, tra l'altro, che ho notato, è che chi aveva avuto una vita di fabbrica, legata solo ed esclusivamente alla fabbrica, aveva lavorato 30 anni in fabbrica e si trovava improvvisamente in cassa integrazione, non reggeva. Cioè proprio io a volte dovevo spegnere il registratore per le crisi di angoscia di questi lavoratori, i quali si trovavano in una situazione veramente drammatica, perché tutta la loro vita era stata la fabbrica. Nel momento in cui la fabbrica veniva meno, sparivano tutte le loro relazioni. Portavano il nipotino al lago, a Verbania, ma non, e la famiglia, che avrebbe in quel momento potuto essere, diciamo, un retroterra, si riveleva invece una spada di Damocle, perché nessuno poteva accettare l'inserimento in famiglia di chi per tutta la vita era stato fuori 8 ore al giorno. Questa come situazione, no? Per cui anche, ti devo dire, mi sono chiesto se era stata una politica giusta, non ho dato una risposta sul il fatto di legare così straordinariamente gli operai alla fabbrica, perché io mi sono accorto che chi in realtà prima aveva fatto il commerciante o era il macellaio che aveva deciso che in quel momento conveniva andare in fabbrica perché si guadagnava di più e era più sicuro, sembrava più sicuro in quel momento, beh, uno che aveva un retroterra, diciamo, imprenditoriale, si muoveva meglio e aveva più prospettive. Questa ricerca l'ho smessa, raccontavo a lui prima, perché anch'io a un certo momento mi sono trovato in una situazione di uno mi ha dato un appuntamento e quando sono arrivato si è buttato dal balcone, insomma, questa è stata la sua risposta. Una cosa che non ho mai capito è perché, per esempio, il dramma di quegli anni, dove ci sono stati un numero incredibile di suicidi, non venissero tranquillamente denunciati per quello che erano, perché certamente uno non si ammazza mai per una ragione sola, ma voglio dire, quando viene a mancare il lavoro è una ragione pesante che si tira poi dietro delle altre questioni. Allora, questo fatto di trovarmi a fare questa ricerca e appunto di vedere che tutti erano preoccupatissimi di dimostrare che Tizio Caio Sempronio si era ammazzato per altri motivi, era una cosa che proprio mi dava fastidio, come mi diede fastidio quando io andai alla CGIL a Novara a proporre una ricerca sulla cassa integrazione e mi sentii rispondere secco secco: ma perché non ci fai una ricerca sulle nuove tecnologie, no? Che sono i momenti in cui uno anche voglia dare dei pugni. Negli ultimi anni 2 volte, con questo funzionario e un po' di giorni fa con un ferroviere, il quale ha cercato di convincermi che non si può viaggiare in treno senza prendere multe se non si conosce a memoria il regolamento delle ferrovie, no? Ecco, lì ho avuto un momento di rabbia intensa. Ma comunque il discorso sulla classe operaia è che la classe operaia è una grande storia, ma se dovessimo andare a prendere un'identità, io direi che l'identità di ognuno di ciascun operaio, dato i suoi percorsi di vita, data la mobilità, dato le esperienze che ha fatto, e questo vale oggi come valeva all'inizio del secolo, perché quello che è saltato fuori è che per esempio molti di noi avevano in mente l'operaio di mestiere, l'attaccamento al lavoro, eccetera, eccetera. Quando poi abbiamo avuto in mano anche altri dati per poter fare, per poter vedere quanto di vero ci fosse in questa nostra convinzione, che cioè ci fossero delle categorie forti che trascinavano poi quelle deboli, che giocavano da volano nelle lotte nei primi anni, sì, abbiamo scoperto che sì, certo c'era qualcosa di vero, ma molto, molto, molto meno di quanto non avessimo creduto noi, non fosse altro perché questi lavoratori di mestiere si muovevano come delle trottole, cioè emigravano, andavano, venivano, facevano, a un punto tale che io ho conosciuto dei compagni con i quali ho parlato delle loro esperienze di lavoro, che non mi hanno neanche raccontato che erano andati a lavorare negli Stati Uniti, capito? Perché era talmente comune viaggiare all'inizio del secolo, che sto parlando adesso proprio dell'inizio del secolo, che non davano peso a questa cosa. Ricordo ancora su una piazza di un paese, avevo trovato un lavoratore che ricordava una canzone sullo sciopero, sull'eccidio di Baba Beccaris, che poi è alle grida strazianti e dolenti. Cioè, se non avessi trovato per caso quello lì che la conosceva, la canzone sarebbe persa, no? Nessun altro. Invece rimessa in circolazione, oggi la cantano tutti, è diventata poi la matrice come melodia anche della canzone, della ballata del Pinelli, eccetera, eccetera. Questo anche per dire che le culture sono fatte di vicende che capitano agli individui, ma anche di interventi, diciamo, organizzativi di ogni genere, per poi fare in modo che queste esperienze possano tramandarsi e possano anche incidere di più, insomma, no? Comunque, insomma, secondo me c'è una, su questa storia dell'identità, ci sono tantissime identità. C'è l'identità del militante, socialista, comunista, cattolico, e sono tra loro cose molto diverse. C'è l'identità, per esempio, di chi frequentava da noi i circoli operai. Il circolista ha una sua mentalità, ha un suo modo di vedere le cose, è attaccatissimo al suo circolo operaio, e per moltissimi anni, noi ne avevamo tantissimi nel Novarese, si è anche, come dire, giostrato molto bene per far continuare questa vita dei circoli anche durante il fascismo. Ci sono dei verbali di circoli divertentissimi dove questi circoli non si sciolgono e non danno la loro adesione all'opera nazionale dopo lavoro, inneggiando a Mussolini, no? Ma comunque l'adesione non la danno e continuano a salvaguardare quella che era una storia di democrazia interna a questi circoli operai. E poi ci sono delle vicende di vita. Ho già parlato troppo? Allora, se permettete, vi racconterei qualcosa riguardante i lavoratori che sono andati a lavorare in Germania dal 35 al 45, perché ti spiego anche perché proprio volontari. E secondo me questo è molto importante, perché questi volontari sono stati poi maltrattati, erano 600.000, non sono mai stati studiati, per tutto un periodo sembravano spariti dalla storia d'Italia, no? Eppure avevano avuto una grande importanza, perché una delle ragioni per le quali il fascismo ha potuto continuare a stare a galla fino alla liberazione è proprio che aveva trovato questo sbocco che permetteva all'ingrosso, non voglio dire a 600.000 famiglie, ma a 400.000 sì, di sopravvivere nel periodo susseguente al 36. Ecco, cos'è questa classe operaia? E qui entriamo in un altro discorso. Per esempio, si raccolgono moltissime testimonianze di lavoratori. Il sindacato ha fatto uno sforzo, però chi registra il sindacato? Registra gli attivisti sindacali. Per cui abbiamo una grande raccolta di attivisti sindacali, ma meno conosciamo le vicende dell'operaio comune, che non sempre si identificava col sindacato o con la... Poi l'attivista sindacale, quando deve rilasciare una testimonianza, molte volte anche si autocontrolla, diciamo, per cui tutta una serie di vicende non proprio legalissime che esistono nella vita della classe operaia non affiorano. Le conosci qualche volta, se proprio riesci. Per esempio, non so, io ero molto amico di Venegoni, che era di Carlo, e Carlo mi fece una lezione di un'ora e mezza sul furto in fabbrica, ad esempio, no? Furto operaio in fabbrica, straordinaria, no? I mille modi di... E queste cose qui, no? E che però non affiorano, pure certi picchetti duri, oppure tante cose, insomma. E questo invece viene molto ben fuori in questa vicenda dei lavoratori tedeschi, i quali erano, appunto, come vi dicevo, 500.000 che venivano dall'Italia tra il 36 e il 45, mezzo milione, e 80.000 circa che arrivavano da Francia, Belgio e Lussemburgo. Quando si sono trovati disoccupati per l'occupazione tedesca in Francia, gli italiani, che molte volte avevano scelto di andare in Francia proprio anche perché antifascisti, invece di tornare in Italia, dove magari anche li mandavano al confine, hanno preferito emigrare in Germania, no? E altri invece sono tornati in Italia e poi sono andati dall'Italia, sono andati in Germania. E questi lavoratori sono prevalentemente fascisti, partono dall'Italia con tutta una retorica alle spalle: finalmente il lavoratore italiano non ha più il sacco, ha la valigia, guardate la valigia, viaggia come qualunque turista, eccetera, eccetera, cose molto importanti a cui questi lavoratori, secondo me, credono. Quando arrivano in Germania si trovano in una situazione che per un certo periodo è ottimale, perché guadagnano dalle 3 alle 7 volte quello che avrebbero guadagnato in Italia. Ed è molto interessante, per esempio, vedere invece alcuni archivi di fabbrica dove i datori di lavoro cercano di trattenere questi operai, in tutti i modi, ma però non vogliono aumentargli lo stipendio, hai capito? E quindi questi molte volte, anche se giocavano questa carta per avere un aumento di stipendio, la carta di lasciare l'azienda, se ne vanno in Germania, no? E secondo me quindi questa propaganda è stata una spada di Damocle per il regime, perché appunto i lavoratori ci credono, e quando le cose cominciano ad andare male e c'è uno scarto gigantesco tra la visione data dalla propaganda e la realtà, è un elemento che si ritorce contro il regime fascista, dando tra l'altro luogo ai primi scioperi massicci che gli operai italiani fanno. Prima degli scioperi del 43 si dimentica sempre che gli operai italiani scioperano in Germania contro il fascismo. Perché? Perché la struttura sindacale in fascista che sovraintendeva l'immigrazione era composta in ampia misura di capi ladri, insomma, no? Che portavano via i generi alimentari che il contratto prevedeva venissero per i lavoratori dall'Italia, e che poi i nostri lavoratori per loro erano molto importanti, perché in parte li rivendevano, il vino ad esempio, non solo rivendevano a un prezzo altissimo, 18 marche allora era un prezzo altissimo, perché il salario di un operaio a volte era di 30 marchi alla settimana, no? Quindi riuscivano a vendere a 18 marchi, e qualche volta anche se facevano dare le bottiglie vuote dal vicino che invece il vino lo beveva, e ne facevano 2 litri, no? E vendevano 2 litri. Ecco, questi lavoratori che appunto a volte, come dicevo, guadagnavano 7 volte che in Italia, hanno avuto a un certo momento una reazione violentissima, soprattutto durante la guerra, per cui si facevano mandare telegrammi quando hanno cominciato i bombardamenti, telegrammi del tipo mamma morta, ti prego tornare, eccetera eccetera, e quindi accertavano in certo senso la Germania. Quello che colpisce è che questi lavoratori hanno bisogno di denaro, hanno bisogno di fare reddito a tutti i costi, no? Quindi dovunque passano sono come le cavallette. C'è un rapporto di Ribbentrop spaventoso, no? Dove parla di questi lavoratori come dei lavoratori italiani, come di una cosa drammatica, perché fanno borsa nera, commerciano stoffa, capi d'abbigliamento, vendono in parte, che poi li vendono in parte ai prigionieri, poi vendono appunto il vino, scioperano perché gli danno il cibo alla tedesca e loro non sono d'accordo con i Krauti, per esempio, no? E trovano un sacco di ragioni per opporsi, rivendono il tabacco, magari quello raccolto nei portacicche, portano via le posate che erano tutte legate con catenelle dove andavano a mangiare, fanno reddito e poi fanno contrabbando di valuta, almeno questo risulta abbondantemente dalle cose di polizia. Naturalmente in tutto questo alcuni vengono anche presi, e vorrei ricordare che di questi lavoratori ce ne sono stati 40 condannati a morte, e appunto per impiccagione, soprattutto per impiccagione, no? E questi, tra questi 40 mi ricordo la vicenda di una, e chiudo qui perché poi potremo parlare magari di altre cose se avete voglia dopo, perché sto parlando da troppo e loro giustamente hanno il diritto di... un ragazzino che parte, perché questa migrazione è continuata fino all'ultimo, anche quando chi poteva scappava, perché la situazione di miseria in Italia era tale per cui tutta una serie di persone ha continuato ad andare fino ancora praticamente quando Berlino era alta così da terra, insomma. Per cui questo ragazzo arriva a Berlino, non trova assolutamente, non solo lavoro, ma non c'è casa, eccetera, eccetera, cerca di arrangiarsi in qualche modo, cerca di entrare nell'SS per poter avere un piatto di minestra, lo rimandano di 8 giorni e lui per mangiare va a rubare, viene preso e gli viene in questo caso tagliata la testa, non mi ricordo più in che lander, lascia una... era proprio un ragazzino in cui dice, per esempio, lascia una lettera ai familiari in cui dice ai familiari dice: cara mamma, tra un'ora mi ammazzeranno, ma non preoccuparti, ci rivedremo in cielo, eccetera. E al capo della prigione dice: io conosco il segreto dell'arma, il segreto delle V2, se voi mi salverete la vita potrò, ecco, queste cose qua, no? Anche per dire che tipo di gente arrivava in Germania, in questo caso un ragazzino che mi ha posto dei problemi, perché a un certo momento il viceconsolo, sapendo che io stavo facendo questo lavoro, mi ha incaricato di consegnare alla famiglia 2 lettere di questo ragazzo, no? E io ho detto: ma scusa, ma siamo matti, questi non sanno nulla, pensano che questo sia morto sotto un bombardamento, eccetera, figurati, io vado lì a portargli 2 lettere nelle quali si dimostra che voi lo avete ammazzato. Dice: ma sai, queste lettere non sono state inoltrate allora e il capo dell'Under vorrebbe che venissero. Io ho fatto questa cosa, la reazione potete immaginarvi qual è stata, e questo è quanto. Credo di non avervi detto niente sull'identità operaia, se non che molto sfrangiata e molto diversa da uno all'altro. Casomai ne parliamo dopo, perché mi sono lasciato prendere un po' la mano dalla voglia di parlare a ruota libera. Allora, grazie Cesare Bernani, direi Marco Carau, classe 1927, nato a Sant'Antioco, arrivato a Bolzano nell'immediato dopoguerra nel 1946, già tesserato comunista all'epoca, in seguito iscritto, funzionario e segretario della CGIL. Sì, vorrei prima di tutto parlare un momentino a proposito della memoria, riconoscendo che purtroppo c'è stata, almeno nell'ambito sindacale, una grande sottovalutazione, e c'è tuttora, insomma, una grande sottovalutazione dell'importanza della memoria storica, soprattutto considerando questo periodo dell'immediato dopoguerra in poi. È un periodo estremamente interessante, insomma, dal punto di vista storico, secondo me, insomma, un periodo anche di transizione, un periodo quindi di lotte, un periodo di grossi problemi, che merita senz'altro di essere ricordato e di essere così trasmesso anche alle generazioni future. Certo, attenua alla responsabilità il fatto che in quel periodo noi si lottava per la sopravvivenza, diciamo, perché dopo l'eredità della resistenza, della liberazione, e quindi nel campo economico dei consigli di gestione, del CLN, e quindi questa spinta grande che diede la lotta di liberazione, insomma, con la rottura della unità antifascista, e quindi poi con la conseguente, anche dal punto di vista internazionale, della guerra fredda, ci fu un periodo di grossa reazione, e quindi di ricostituzione dell'ordine capitalistico, insomma, dell'ordine borghese, insomma. E quindi in quel periodo noi eravamo preoccupati di far sopravvivere l'organizzazione, specialmente in zone difficili e dure come qui in Alto Adige, e certamente non avevamo la possibilità di documentare, di lasciare atti scritti che potessero poi facilitare le ricerche e ricostruire poi il periodo, insomma, no? Ecco, quindi non rimane che rivolgersi ai protagonisti, insomma, ai ricordi delle persone, ce ne sono tanti che hanno vissuto quel periodo, e cercando di, così, insomma, di dare una conoscenza, una visione completa, una visione organica, insomma, di quel periodo, perché, ripeto, è un periodo storico, secondo me, assai, assai importante. Ricordo benissimo quanto, sempre a proposito della memoria, che noi non esistavamo per la stampa, per i mezzi di divulgazione, insomma, no? Perché c'era un ostracismo completo, insomma, no? Ricordo che per farsi pubblicare un piccolo comunicato dovevamo fare aspre battaglie, no? Ma non, assolutamente c'erano le sale cinesche chiuse per il sindacato, così per i problemi dei lavoratori e così via. Insomma, non parliamo poi del Dolomite, no? Che assolutamente era tabù, perché oltretutto erano fonti italiane che loro assolutamente non conoscevano nemmeno, insomma, no? E quindi tutto è rimasto assai nascosto in quell'epoca, almeno fin tanto che poi, come dirò, la cosa si è avuto un'evoluzione positiva, appunto in virtù di quelle lotte, di quel periodo, di quelle tensioni, di quelle battaglie che si fecero, insomma. Però tutto questo, quel periodo precedente, insomma, è ancora abbastanza oscuro, secondo me, insomma, e quindi varrebbe la pena che gli studiosi, o comunque coloro che si occupano di queste ricostruzioni, insomma, no, facessero delle ricerche utilizzando proprio la memoria dei protagonisti, insomma, non soltanto dei dirigenti, insomma, ma anche andando a parlare con i lavoratori, con quelli che poi hanno vissuto sulla propria pelle in maniera più dura di altri, insomma, questo periodo assai triste, no? E poi felice quando c'è stata la riscossa, che dirò, insomma, no? Questo periodo triste in cui le persecuzioni erano all'ordine del giorno, no? Perché c'è stata questa superata la paura, sta borghesia, insomma, la paura della guerra di liberazione, della resistenza, della liberazione, insomma, superata questa paura, si sono ricostruiti il loro potere attraverso proprio la soppressione dei diritti, di tutti i diritti, insomma, che i lavoratori credevano di aver conquistato fino ad allora, insomma, no? Quindi consigli di gestione vennero gradualmente sciolti, che erano poi lo strumento che doveva partecipare alla gestione dell'azienda, è una cosa abbastanza importante. E poi sempre più difficilmente si potevano costituire le commissioni interne, perché molti lavoratori temevano le persecuzioni, che consistevano nel licenziamento, consistevano nel metterli nei cosiddetti reparti isolamento, nei reparti confino e così via. E quindi c'ho tanti nomi, come Mantovan, come i fratelli Carrara di Merano e così via, insomma, no? Ne potrei citare tanti, ne posso citare proprio, che hanno subito sulla loro pelle, insomma, questa loro resistenza, questa loro così fedeltà ai principi, insomma, no? Della solidarietà di classe, insomma, ai principi dell'avanzamento del progresso dei lavoratori, insomma, no? Ecco, quindi veramente varrebbe la pena, insomma, di rivisitare quei tempi e ricostruire un po' tutto quanto, insomma. Noi in quell'epoca, insomma, si fecero dei sacrifici veramente difficilmente raccontabili, insomma, no? Però soprattutto sacrifici nel senso che andavamo davanti alle fabbriche per vedere di convincere i lavoratori a scioperare quando poi c'erano manifestazioni di carattere anche nazionale o per i contratti di lavoro o così via, insomma, no? E lì la grande paura, insomma, no, che esisteva allora, insomma, molti induceva moltissimi a entrare in fabbrica, insomma, e quindi noi ci succedeva così che rimanevamo da soli, insomma, no, perché prima scappava uno, poi scappava l'altro, poi fin tanto che poi praticamente il picchetto rimaneva da solo, insomma, no? C'erano lavoratori come Aldo Foldi che da solo alle acciaierie, insomma, lui scioperava da solo, insomma, ma queste cose poi non è che poi non siano servite a niente, insomma, no? Non è che poi non abbiano dato frutti, non è che non abbiano dato risultati, insomma, no? Perché tutta questa persecuzione, questa contrapposizione, questa resistenza, insomma, da parte dei lavoratori, insomma, poi ha fatto maturare le condizioni che non è venuto per miracolo, insomma, no? Le condizioni della grande riscossa del 68, del 69, insomma. E lì abbiamo avuto veramente delle grandi soddisfazioni, a parte il fatto, come raccontavo già a Giorgio, insomma, no, che c'era il movimento studentesco, insomma, che ci rimproverava, e come ci mettevano le dita sotto il naso, che non avevamo fatto niente per far crescere la coscienza di classe, dei lavoratori, insomma, è una cosa che anche ci faceva piacere, insomma, nel senso che perché non c'era il riconoscimento di quello che avevamo fatto, insomma, ma perché gli studenti fossero arrivati a una tale maturazione, insomma, da rimproverarci noi, da dirci che non avevamo fatto abbastanza, insomma, no? E ricorderò sempre, che anche questo l'ho già raccontato anche a Giorgio, ricorderò sempre quando fu proclamato uno sciopero, che ormai gli scioperi non riuscivano più, si proclamavano ma non riuscivano, insomma, no? Ma...